Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Il posto dei desideri, ovvero a cosa serve la sete. Se ci conosciamo di persona, potrebbe esserti capitato di sentirmi dire: «Ah, ma io sono come i bambini piccoli o i cani, non ho il senso del futuro». Questa affermazione è vera. No, non sono una hippie fatta e finita e non vivo in una realtà parallela tutta chakra, unicorni e fiori di loto. Probabilmente le vicende della vita e più di 20 anni di yoga mi hanno insegnato a star bene del presente, questo sì. È vero anche che ho sempre fatto un'enorme fatica a proiettarmi nel futuro. È presente quelle raccapriccianti domande da colloquio: dove ti vedi fra 5 anni? Ecco, la risposta più onesta per me è sempre stata: e che ne so? Ma? Sì, c'è un ma e me ne sono accorta nelle ultime settimane, senti qui. Non è proprio totalmente vero che non ho il senso del futuro. Non so di avercelo, succede sotto pelle, senza fissazioni o grandi dichiarazioni, nel preconscio, direbbe qualcuno. Come faccio a saperlo? Lo so perché la mia direzione chiara e forte c'è e c'è sempre stata. A volte più nitida, a volte scoperta lentamente, dissotterrata tra mille strati di condizionamenti. Il mio sentiero, inizialmente sotto traccia e poi sempre più nitido, è lì. Disclaimer: se mi leggi da un po' o mi conosci di persona, saprai che la mia capacità di perdermi ovunque è leggendaria. E dunque, quando parlo di direzione, mi riferisco a direzioni esistenziali, non stradali. Non vale solo per me, vale per tutti. Prima che un movimento accada, è già accaduto. Non mi riferisco a un destino ineluttabile, è come funziona il nostro corpo. Sì, anche il tuo. Prima di fare qualunque movimento, compreso quello che hai fatto cliccando per aprire questa newsletter, i tuoi muscoli si sono organizzati per spostare la mano sulla tastiera o sul cellulare, ad esempio, e gli occhi in modo da predisporti a leggere. Prima di tutto questo, però, il tuo sistema nervoso si è attivato e ha pianificato una cascata di azioni per assicurarti la coordinazione necessaria per arrivare a leggere o ascoltare. In altre parole, prima di un movimento grande, ampio, visibile, percepibile, c'è una costellazione di azioni sottili che sono già successe a livello inconsapevole. C'è una direzione. Il cambiamento sta già accadendo, anche se non vedi ancora una manifestazione esterna. C'è qualcosa nella tua vita che vuoi modificare? Sono i microaggiustamenti che stanno iniziando adesso che ti porteranno a passaggi più profondi. Il cambiamento è già lì, prima che tu lo veda. E magari ti senti bloccato o bloccata e stai scomodo o scomoda perché a livello consapevole non te ne sei ancora accorto o accorta. Il fatto è che molto spesso, proprio quando sei scomoda, scomodo, bloccata, bloccato, cerchi di prevedere il futuro basandoti sul passato, cercando di correggerlo, di perfezionarlo. Spoiler, è una pessima idea, perché crea una gran confusione. Il sentiero perfetto non esiste, è solo un'idea e non è nel corpo. Perché tutti i nostri cammini sono imperfetti. Lasciare andare il continuo paragone con un ideale irrealizzabile e abbracciare il tuo sentiero, farlo tuo, ti permette di trovare la pace e la gioia che desideri. E i desideri stanno nel futuro. Anche per me, che pensavo di non essere capace di proiezioni, tanto più in là. I desideri sono le domande che facciamo alle stelle. I desideri sono una direzione. Vuoi scoprire insieme a me la tua direzione autentica? Il percorso La bussola interiore fa per te. Puoi partecipare in 3 modi diversi. 1. In diretta, 4 lunedì di seguito, in diretta dalle 19.30 alle 20.30 a partire dal 9 ottobre. Le dirette non saranno registrate, la partecipazione è riservata alle persone che leggono o ascoltano questa newsletter. Il contributo di partecipazione è così ridotto per venire incontro a tutti, 25 euro. Ti devi iscrivere entro il 2 ottobre, quindi sbrigati a contattarmi. 2 modo per partecipare al percorso. Tramite 6 registrazioni di 40 minuti ciascuna, più un incontro individuale online di 30 minuti con me. Le registrazioni sono curate in modo da permettere di seguire al meglio il percorso anche a chi non ha mai praticato insieme a me. Attenzione, gli argomenti delle registrazioni e delle dirette sono gli stessi, sbircia il link, ma sono sviluppati in modo diverso, a seconda che tu ne fruisca in streaming o con registrazione, in modo da farti avere la migliore esperienza possibile. Inoltre, per tutte le persone che seguono le registrazioni, ribadisco, c'è un incontro personalizzato individuale online con me che fisseremo insieme. Il terzo modo per partecipare è partecipare sia con le dirette e con le registrazioni e c'è uno sconto. Controlla il link e contattami. Insegni yoga e vuoi scoprire il tuo approccio autentico al di là del teacher training che hai frequentato? Facciamolo insieme. Per i prossimi mesi ho due posti disponibili per aiutare chi insegna yoga, come me, a trovare il proprio modo migliore per aiutare i propri allievi. Scrivimi. Abbracciare la nostra complessità, la nostra umanità, la nostra pulsante, fantasmagorica biologia, la nostra storia speciale, è abbracciare il nostro sentiero, la nostra direzione autentica. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Antonio Machado dalla raccolta Proverbi e Cantari. È bene sapere che i bicchieri servono per bere. Il problema è non sapere a cosa serve la sete. Un grazie speciale a tutte le persone che rispondono alle mie newsletter, che mi raccontano di sé, che mi contattano. La meraviglia della condivisione mi riempie sempre di gioia. Ogni singola volta. Un grande abbraccio. Laura.